Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Esiste, tra le tante affabulazioni che rappresentano e raccontano il passato storico di un paese, un importante capitolo dedicato all'industria italiana che non c'è più. Ci è piaciuto da mattina rievocare il nostro passato di paese industriale con uno storico della scienza e con uno scrittore. Abbiamo fatto un viaggio attraverso i luoghi che una volta ospitavano fabbriche, acciaierie, manifatture, miniere. Oggi sono dei veri e propri siti di archeologia industriale, ma un tempo erano i luoghi pulsanti della rinascita economica dell'Italia. Erano vere e proprie città in cui una popolazione si articolava, aveva le sue scuole, i suoi dopolavoro, i suoi luoghi di intrattenimento, i suoi luoghi di cura, i suoi luoghi di speranza, i suoi luoghi in cui era possibile passare anche il periodo felice che seguiva l'abbandono del lavoro. E oggi di tutto questo non rimane più nulla. Rimangono solo vestigia ammuffite, risucchiate dalla natura, luoghi che hanno rappresentato una realtà pulsante e oggi sono soltanto dei luoghi di ricordo. Ecco, sulle macerie della nostra grande industria abbiamo fatto un viaggio molto romantico, molto suggestivo. Nel bacino del Sulcis, in Sardegna, la miniera più lontana dal mare è quella di Serugi. Il carbone di tipo pregiato viene avviato su un lungo nastro trasportatore alla prima fase di lavorazione. Le braccia dell'uomo sono sempre necessarie nel mondo delle macchine. Le robuste braccia di un minatore spezzettano col martello i blocchi più grossi. Frantumato, il carbone viene setacciato da un bibravaglio e va poi a finire alla laveria. Qui il minerale è lavato in vasche e docce per pulirlo dalle materie sterili. Ora il carbone è giunto ai depositi, pronto all'imbarco. Dai silos, tramite un elevatore, passa attraverso il tubo telescopico e lo stiva nel capace ventre delle navi in attesa. È 1 milione di tonnellate di minerale selezionato che segue annualmente questa strada. Va a rifornire centrali idroelettriche, cementerie, forni speciali, questo pregiato prodotto delle miniere sarde. Tra le tante vestigia del nostro passato che richiedono salvaguardia, ve ne sono di antichissime, di attraversate dal senso della storia. Ve ne sono di relativamente recenti che anche loro sono state attraversate da una storia fatta non di eroi, non di menti eccelse, ma fatta probabilmente di tanti esseri umani che lì hanno lasciato una traccia, soprattutto del loro lavoro. Stiamo parlando di un paesaggio intermedio che è facile cogliere in alcune parti del nostro paese, rappresentato dalle vestigia dei grandi centri industriali, dei grandi complessi, le grandi fabbriche, le grandi miniere, come avete sentito questo servizio sulle miniere del Sulcis in Sardegna, le raffinerie, le acciaierie, le fabbriche. C'era sempre dietro l'idea di una grande famiglia, di un grande padre fondatore, di un grande magnate che aveva messo qualcosa di più che un'impresa economica in quei luoghi, aveva messo qualcosa di una sua piccola utopia. Ricordo, ma non saprei citarlo con esattezza, una specie di villaggio costruito da un grandissimo estrattore di marmo dalle parti di Carrara, di Marina di Carrara. Sarà costruita una città dove al centro della piazza c'era la sua statua e c'erano le scuole e c'erano i centri per passare i pomeriggi. Poi sono andato a vedere l'ex Falck a Sesto San Giovanni. C'è una grande vicenda, anche un grande intrallazzo in corso su cui si sta indagando, però lì è un posto attraversato da una fantastica storia. Ci passava un treno in mezzo e c'erano questi, era tutto basato su dei grandi altoforni che erano accesi notte e giorno, quindi una sorta di cuore di fuoco che ardeva all'interno di questa città, dove c'era una popolazione vera e propria, c'erano migliaia di persone, il cui tempo era scandito da sirene, non portavano orologi, la sirena che scandiva ogni turno di lavoro, la loro vita era organizzata sui turni di lavoro, e lì dentro avevano scuole, dopo scuola, e centro di ricreazione, e sale da ballo. Perché? Perché era fisiologico che i figli degli operai si sposassero con le figlie degli operai, come se fosse l'inizio di una genia che sarebbe durata in eterno. Oggi sono soltanto macerie, c'è ferro abbandonato, grandi capannoni, ma macchinari che si arrugginiscono e dove fanno i nidi gli uccelli. Beh, quante ne conoscete in giro per l'Italia di questi posti? Avete una memoria storica, familiare, personale, di operai che hanno lavorato in queste grandi macchine di lavoro, di produzione, ma anche di utopia, che oggi sono soltanto dei paesaggi abbandonati. La chiamano archeologia industriale. 800240024. Un tuffo nel passato di 100 e passa anni, la visita al villaggio Crespi d'Adda, villaggio operaio di fine 800, il luogo ideale per il lavoro e per viverci, secondo la concezione dei Crespi, famiglia di industriali, proprietari di questo storico opificio tessile e inventori dal nulla di questa cittadella operaia riservata ai soli dipendenti della fabbrica. Nel villaggio operaio di Crespi d'Adda c'era tutto. C'era e c'è ancora la scuola. Nella scuola tutto era fornito dalla fabbrica, dai libri alle penne, dai grembiuli allo stipendio degli insegnanti. C'era l'ospedale e ora c'è il presidio medico. Nel mondo perfetto della famiglia Crespi, industriali, politici e già proprietari del quotidiano Il Corriere della Sera, loro si erano riservati un vero e proprio feudo, vivendo nel loro castello privato, come i signori del Rinascimento, provvedendo tuttavia a tutti i bisogni dei dipendenti. Un atteggiamento non esattamente democratico, ma poi certo, queste isole di utopia all'interno dell'Italia della ricostruzione, via via che il processo dell'economia cambia, muta, diventa qualcos'altro, hanno naturalmente meno ragione d'essere. E poi, per varie ragioni che non ci interessa questa mattina analizzare, questi posti sono diventati delle grandi cattedrali in cui rimane ancora il segno di quello che furono. E dietro, secondo me, ci vedo sempre il grande desiderio di costruire qualcosa di autonomo. Ognuno doveva costruire il proprio monumento alla propria famiglia, alla propria ideazione, al proprio potere d'acquisto, alla propria grande, immensa capacità di poter creare una popolazione di cui loro erano, non voglio dire i despoti, ma comunque i padroni assoluti perché davano lavoro. Oggi questa non ha più ragione di esistere nella nostra società, però osserviamo ancora questi posti e ci raccontano molto delle persone che vi hanno vissuto. C'è stato un momento, a metà degli anni 60 del XX secolo, in cui un'azienda italiana ebbe l'occasione di guidare la rivoluzione informatica mondiale, 10 anni prima dei ragazzi della Silicon Valley, Steve Jobs e Bill Gates. Una rivoluzione tecnologica che aveva le sue radici in una rivoluzione culturale e sociale, in un modello industriale pensato al di là di socialismo e capitalismo, che il suo promotore, Adriano Olivetti, aveva cominciato a sperimentare sin dagli anni 30, a Ivrea, in provincia di Torino. In questo asilo nido raccogliete i figli di tutti i dipendenti? Sì, dall'operaio al dirigente, tutti. Quando il bambino ha 6 mesi e mezzo, la madre ha diritto di portarlo al nido e viene assistito completamente dal mattino alla sera. Cioè gli date da mangiare? Sì, gli date da mangiare, tutte le cure pedagogiche, tutto quello che il bambino avrebbe se fosse a casa, anche le cure mediche. Il paradosso è che il livello di servizio che oggi il nostro arraffazzonato welfare non riesce a fornire, almeno in maniera omogenea su tutto il territorio, allora era possibile in questi luoghi segreti fino a un certo punto, luoghi limitati, che erano le grandi fabbriche, le grandi industrie. Giancarlo Liviano d'Arcangelo, buongiorno. Buongiorno a voi. Giancarlo, che è anche un nostro amico, ha scritto un libro, secondo me fantastico, Invisibile è la tua vera patria, per Edizioni Il Saggiatore, che è un reportage dal declino, luoghi e vite dell'industria italiana che non c'è più. Ha passato 9 mesi della sua vita a girare tutti questi luoghi che ho soltanto accennato e poco citato per tirare una sua conclusione. Dove sei stato innanzitutto? Dunque, ho fatto un giro abbastanza completo da nord a sud Italia. Sono stato da Ivrea, cioè nella patria di Adriano Olivetti, poi sono passato per il villaggio operaio di Crespi d'Adda in Lombardia, sono stato in Sardegna alle miniere, sono stato in Sicilia, sono stato all'Ilva, che è la mia terra d'origine, e poi sono stato anche a Roma per vedere l'UNEUR, e quindi ho cercato di raggiungere tutto il territorio nazionale per poter raccontare questi luoghi che sono forieri veramente di storie meravigliose e incredibili. Qual è il senso? C'è un filo comune che li lega tutti, a parte diciamo l'aspetto spettrale, ma la grande cura architettonica, ognuno metteva lì qualcosa e c'era proprio un senso poetico di costruire una città che assomigliasse alla città dell'utopia. Assolutamente, assolutamente. La linea comune che connette, secondo me, tutti questi posti, che li interconnette e li fa riprendere vita, è proprio il fatto che, al di là della volontà, come tu dicevi giustamente prima, di alcune personalità particolari di creare dei mondi, di creare delle città utopiche, di creare dei luoghi di vita e di lavoro, veramente poi queste cose sono successe davvero, magari per poco tempo, e questi microorganismi, questi microcosmi hanno veramente come dire, prodotto dei momenti di vita nazionale che secondo me sono purtroppo veramente poco raccontati, eppure sono veramente il succo, veramente la densità della storia di questo paese dell'ultimo secolo. E noi cercheremo di ricostruirli questa mattina attraverso anche delle testimonianze. Io, siccome abbiamo già dato qualche indicazione, sicuramente ci sarà qualcuno che si sarà fatto riassalire immediatamente dal ricordo, dalla nostalgia, da racconti fatti in famiglia. Il numero è 800 24 00 24. Renato Falconati, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Il signor Falconati l'ho conosciuto un anno fa proprio in una mia visita che feci, rimanendone estasiato, dell'ex Falc a Sesto San Giovanni. Qual è la sua storia? La mia storia è una storia che racconta di una famiglia numerosa della bassa bergamasca che alla fine all'inizio degli anni 90, finita la mezzadria, cioè la storia di mio nonno era la storia un po' dell'albero degli zoccoli di Olmi. Quindi lui si trova con molti figli, vedovo, si trova a trovare una si trova a realizzare la propria vita sua e dei suoi figli in un altro modo. Quindi conosciuto, saputo che nelle aree del milanese, soprattutto a Sotto San Giovanni, stavano nascendo queste nuove grandi fabbriche siderurgiche, si incammina con questa carovana di uomini, bambini, donne, verso la città di Sotto San Giovanni. Quindi è proprio il passaggio concreto e reale del nostro paese da un'arcaica vita rurale alla vita industriale. Esatto, la vita industriale, quindi questa trasformazione di vita. Qui, fortunatamente per loro, hanno trovato tutto quello che necessitavano. Quindi entrano in questa città che era la Falc di Sesto San Giovanni. Sì. Allora erano tedeschi, mi sembra. Alsaziani, sì. Vengono chiamati tedeschi comunque. E come era organizzata questa città? Questa città, dunque, erano due le città. Beh, a Sesto Giovanni non c'era solo la Falc, c'era la Breda, quant'altro, però se parliamo di Falc, io penso credo di poter affermare che le città erano due, quelle al di là del muro, cioè dentro la fabbrica, e la città al di qua del muro, che era la vita sociale con le case dei dipendenti, diciamo. Quindi voglio dire, le case, cioè l'operaio aveva la casa, aveva l'assistenza sanitaria con un ospedaletto, aveva le scuole migliori per i propri figli, cioè metodo Montessori, la scuola materna e elementare Montessori. Di che anni parliamo più o meno, signor Falconati? Parliamo degli anni, mio nonno venne nel 1908, però comunque si parla degli anni 30, 25, 30, 40. Beh, pensi, in un periodo in cui in Italia ancora c'era un tasso di analfabetismo altissimo. Certo, c'era molta, la parte della proprietà della fabbrica, c'era non solo l'assistenza economica, ma c'era anche una voglia di creare questi personaggi, cioè di dargli una scolarizzazione. Ecco, invece la sua esperienza personale diretta, perché lei è stato, diciamo, figlio dell'ultima generazione degli operai. Sì, l'ultima generazione. Quindi lei ha vissuto la vita di questa città quando già era cambiato tutto. A oggi sono 51 anni che sono all'interno delle aree Falc, sono entrato nel 62, quindi come giovane lavoratore che proveniva dalle scuole dei Salesiani, e poi ho fatto tutto il mio percorso fino a pochi mesi fa, perché ho seguito le varie proprietà dell'area. Suo padre ha avuto anche un incidente, mi pare, a un certo punto. Mio padre, sì, abbastanza giovane, io avevo 3 anni, quindi parliamo del 49, gli amputarono la gamba destra in un incidente del lavoro. Allora gli incidenti del lavoro erano abbastanza frequenti, anche se... Cioè tutta la vita era intorno alla colata, la colata dell'acciaio, quindi quando colava l'acciaio poteva succedere di tutto. Sì, ma non solo l'acciaio, la minatoia, le corderie, ogni lavoro che si faceva c'era del rischio e quindi bisognava porre molta attenzione. Diciamo che la cultura del preservare gli operai e i dipendenti da incidenti sul luogo del lavoro nacque molto molto più avanti, fino forse all'inizio degli anni 50, ma prima era tutto un po' così. Era come andare in guerra, andare all'altro fondo. Demandato alla persona, ecco, la persona doveva stare molto attenta, anche se aveva in dotazione quel minimo di attrezzature particolari per salvaguardare la sua integrità, però purtroppo, io mi ricordo mio padre e i miei zii dentro, e sembrava che loro più lavoravano più erano felici, e molte volte il guanto gli dava fastidio, la maschera gli dava fastidio, non so, loro... Volevano il contatto fisico diretto con l'acciaio. Fermiamoci un attimo perché c'è altre testimonianze. Antonio, buongiorno. Allora, io volevo portare l'esperienza mia. Io ho abitato a Mestre, mio padre era funzionario, va bene, adesso la ditta non esiste, si vede a Montedison. Quindi la mia vita è sempre stata scandita attraverso le varie fasi che la ditta di mio padre organizzava per i figli, perché sono andato in colonia per fino a 11 anni. E dopo avevo le borse di studio, ho iniziato a giocare a pallacanestro, poi dopo lavoro e suo c'erano i supermercati, spaccio, c'era le borse di studio, io ho fatto tutte lo spaccio, spieghiamo per le nuove generazioni, era gli alimentari, non è che fornivano anche sostanze psicotrope, sì. No, sa, oggi sentono i ragazzi, no, che bello, c'era anche lo spaccio, non era così, non era questo. E mi ricordo che la mia palestra dove giocavo era vicino al sito di produzione di una nota colla vinilica . E allora noi giocavamo con i vapori della colla, forse là che... Cioè vi sballavate col Vinavilla ancora prima del tempo, vabbè, quello sì. che rimane l'allegria. Fermo un attimo Antonio, Vittorio invece? Sapevo che avremmo toccato una nota emotiva importante nel nostro pubblico, lei Vittorio invece cosa ricorda? Vittorio, sì. Allora io abito a Valdagno e quindi la sede della Marzotto, filature, tessiture e abbigliamento. Allora diciamo che lì il sistema sociale della città, cosiddetta sociale ma dell'armonia della Marzotto, è iniziato la fabbrica nel 1836. Nel 1866 c'era già il primo mutuo soccorso a disposizione per gli operai per l'acquisto di beni di generi alimentari, vestiario eccetera eccetera. Negli anni 30 è stata sviluppata la città dell'armonia, dove è stato costruito un teatro di 1861 posti. Bene Vittorio, c'era il senso comunque di fare qualcosa di più che un luogo in cui si lavorasse, c'è proprio un'idea folle dietro di creare la città della felicità. Certamente, però c'è riuscito anche perché ha fatto scuola, perché tanti universitari negli anni 70 di facoltà di medicina di Padova venivano a Valdagno a studiare il sistema sociale della Marzotto e di assistenza con gli anziani dal nido alla tomba, si può dire. Fermo lì Vittorio, grazie, l'interesse dal nido alla tomba è la sintesi di tutto, mi ricorda qualcuno anche l'industria Solvay di Rosignano, con le abitazioni belghe per i dipendenti, gioielli impensabili. Riprendiamo con Giancarlo Liviano d'Arcangio. Allora, ti ho fatto sentire che in realtà esiste questa sorta di ricordo sommerso, basta suscitarlo. Certo. Andiamo nello specifico del tuo viaggio. Dunque, no, ma tutte queste testimonianze secondo me sono veramente importanti e straordinarie, perché poi veramente riportano a quel momento d'oro, quel momento assolutamente aureo di inizio Ottocento, in cui appunto la visione industriale che si doveva completamente ricreare sul modello poi dell'esperienza inglese e così via, faceva sì che intorno al polo industriale veramente ci fosse un'attenzione, naturalmente non completamente, diciamo così, pura e non completamente... Ma certo, dovevano lavorare poi, esatto, erano bestie da lavoro, però le trattavano bene. Esatto, sì, il modello è esattamente questo, cioè naturalmente si creavano dei luoghi in cui tutte le esigenze umane, diciamo così, erano in qualche modo gestite e controllate dall'azienda e che in cambio, diciamo così, però richiedeva un tenore di vita. Sì, sì, richiedeva, migliorava il tenore di vita. Naturalmente l'obiettivo era quello di creare un polo di lavoro specifico in un territorio, perché non c'era proprio naturalmente manodopera. Era una colonizzazione, esatto, vera e propria. Era veramente una sorta di colonizzazione. Stefano Morigi, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Storico, filosofo della scienza. A te non affascina, Stefano, questa sorta di visione? Oggi la chiameremo steampunk, perché oggi nelle tendenze giovanili di tutto questo rimane una memoria genetica, che è lo steampunk, questa sorta di mondo futuribile in cui la tecnologia più avanzata assume delle valenze estetiche proprie di quel periodo. Vuol dire che ancora non ce lo siamo dimenticati? Fortuna non ce lo siamo dimenticati, perché sicuramente sono modelli superati rispetto alla nostra società attuale, però in tutte le testimonianze, anche nel libro di Liliano D'Arcangelo, emerge forte un legame tra la cultura d'impresa, che è una cosa molto importante, il senso dell'innovazione e l'importanza della ricerca. Avete parlato del villaggio Crespi d'Adda prima. Prendo solo un dettaglio di questo villaggio: è stato il primo paese in Italia a essere dotato di illuminazione pubblica col sistema moderno di Edison. Come era arrivato in Italia il modello di Edison? Era arrivato attraverso un geniale professore di meccanica dell'allora Politecnico di Milano, il quale aveva intuito che il mondo stava cambiando. Nel 1881 era andato alla grande mostra internazionale dell'elettricità di Parigi, dove aveva trattato con la società di Edison per avere in Italia l'esclusiva dell'elettricità. E l'anno successivo era andato con la nave negli Stati Uniti per assistere all'inaugurazione della prima centrale elettrica del mondo a New York, e con Edison in persona ha trattato e progettato la prima centrale dell'Europa continentale, che era a pochi passi, si è stata realizzata poi a pochi passi del Duomo di Milano. Quindi questa cultura dell'innovazione di cui oggi si parla, ci si riempie la bocca come se fosse la chiave di risoluzione di tutto. In realtà c'aveva questa generazione di magnati, avevano un occhio, non voglio dire che fossero dei santi o lo facessero perché volevano salvarsi l'anima, lo facevano perché era la maniera migliore per avere profitto per loro, però erano illuminati perché osservavano ciò che accadeva nel mondo. C'è sicuramente una dimensione, come tu dicevi, autocelebrativa, ovviamente. Sì, era la loro grande follia, era il loro orgasmo quotidiano, chiaro. Esatto, anche utopica, se vuoi, no? Nella realizzazione di questi modelli di città ideale che riprendevano esperienze soprattutto di matrice anglosassone, ma c'era la consapevolezza che in qualche senso il benessere di chi lavora con te, la ricerca più avanzata e l'innovazione fossero tre ingredienti fondamentali per scommettere sul futuro del paese e anche sui loro propri interessi personali. È come quelli che mettono la musica classica nelle stalle perché pensano che le mucche facciano più latte, qualcosa del genere. Melog, la realtà condivisa. E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato? Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70 mila, eppure di più. Tutto dipende da noi. Il 5000% di profitto. Eccolo là. Quello è l'oro oggi. E chi te lo dà? Il commercio, l'industria? L'avvenire industriale del mezzogiorno, sì. Investi i tuoi soldi in una fabbrica, sindacati, rivendicazioni, scioperi, cassa malattia. Ti fanno venire l'infarto queste cose. E invece niente affanni e niente preoccupazioni. Tutto guadagno e nessun rischio. Noi dobbiamo fare solo in modo che il comune porti qua le strade, le fonti. Questo è Mani sulle città di Francesco Rosi, che spiega qual è stato il passaggio a un certo punto, il continuare a investire in questa sorta di modello industriale era molto meno conveniente che fare grandi speculazioni edilizie, e si è cominciata quindi la cementificazione dell'Italia. Stiamo parlando questa mattina del libro di Giancarlo Liviano D'Arcangelo, Invisibile è la tua vera patria, Il saggiatore, che è un reportage dei luoghi e delle vite dell'industria italiana che non c'è più, un grande viaggio che è durato quasi un anno attraverso tutti i grandi complessi industriali che hanno fatto appunto l'economia dell'Italia in un arco di tempo, e poi terminato quando è cominciato il periodo, diciamo dagli anni 70 in poi, che l'industria è entrata in crisi. Ma questi luoghi erano luoghi, come abbiamo visto, in cui veniva celebrata anche l'utopia del grande fondatore. Mi stanno arrivando tantissimi messaggi che mi raccontano quello che era appunto vivere e lavorare in questi posti. Mi si scrive che Enrico Mattei aveva fatto un villaggio vacanze pazzesco alle parti di Pieve di Cadore, una cosa incredibile per i dipendenti dell'ENI. Poi il villaggio Iemaunam di Rivoli, con fabbrica, casette svizzere, chiesa, bar, taverna. Rimangono ancora i sogni. Stiamo Silvia. Silvia, buongiorno. Buongiorno. Io ho chiamato per raccontare la storia dei miei nonni che si sono conosciuti in fabbrica, alla Pirelli Bicocca. Mio nonno veniva da un paesino della Brianza, mia nonna era di Milano, abitava poche centinaia di metri dalla fabbrica e si sono conosciuti così, mia nonna era operaia generica, mio nonno era operaio specializzato e lavorava nel reparto corse e niente, appunto, fra i macchinari della Pirelli, fra le gomme, è nata la loro storia d'amore che e poi un amore pneumatico. Pneumatico a prova di intemperie. E mia nonna mi raccontava sempre come era bello lavorare in quegli anni per una grande azienda, perché mio nonno poi aveva avuto dei problemi di salute e la Pirelli aveva provveduto a trovare un medico, un primario che l'aveva seguito, l'aveva curato, tutto a spese della ditta ovviamente. Poi ancora ricordo mia nonna, noi abitavamo a Monza, in Brianza, e a volte andavamo a Milano magari a trovare qualche suo parente oppure a fare un giro in centro, prendevamo questo pullman che passava per viale Fulvio Testi, quindi proprio davanti alla Bicocca, stiamo parlando dei primissimi anni 80, io ero una bambina e mia nonna passando lì davanti ricordava i tempi in cui lavorava in Pirelli e mi descriveva, qui entravamo, qui c'era l'ambulatorio medico e lo raccontava con grande affetto, sembrava quasi la canzone di Iannacci, no? Vincenzina vuol bene alla fabbrica, mia nonna aveva una sorta di gratitudine per la fabbrica, per quello che aveva dato a lei e a mio nonno. Perché aveva anche aveva permesso a loro di scoprire l'amore fra i copertoni e le camere d'aria. Mauro, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Io sono un ex dipendente Olivetti, ho vissuto tutta la mia vita all'interno dell'Olivetti e credo che Adriano Olivetti, l'Olivetti ancora della famiglia Olivetti, fosse in qualche modo un prodromo di tutto quello di cui state parlando. Volevo fare una piccola osservazione. L'ascoltatore che le ha scritto del villaggio dell'ENI, lei pensi che all'interno di quel villaggio c'è una chiesa fatta da Carlo Scarpa? Quello che voglio dire è che, non so, Adriano Olivetti a Massa aveva uno stabilimento metalmeccanico dove lavorava i coil di lamiera per i classificatori, le macchine, eccetera. Fece costruire questo stabilimento scavando per terra, scavando sul piano stradale, perché non avesse un impatto ambientale sul filo dell'orizzonte che potesse disturbare. C'erano asili, d'estate le persone lavoravano dalle 7 alle 2 perché potessero andare ai bagni per accudire ai loro bimbi o per avere una seconda attività. Quello che voglio dire è questo. Una volta faceva informazione con l'Eletta, che era patrimonio industriale di un'azienda. Oggi si fa con, che ne so, con, mi scusi la volgarità, con quattro chiappe o con quattro seni. È questo, è l'approccio che è cambiato. Sì, che non è che poi ci fanno questo schifo, sennò sembra che non siamo padri trappisti. Sono godibilissime, ma l'approccio è completamente diverso. Sono diversi anche i tempi. Esistono piccole realtà che in qualche modo cercano di imitare o in qualche modo di riportare quel tipo di cultura, la Naisa, Oderto, la stessa Diesel. Se lei avrà modo di andare a vedere lo stabilimento della Diesel, è concepito in modo tale che ci sia anche in qualche modo un qualcosa che va al di là dell'aspetto mercantile e dell'aspetto industriale. È chiaro Mauro, fermiamoci solo un istante, perché dobbiamo ancora, ci sono dei punti che abbiamo lasciato in sospeso. Giancarlo Liviano d'Arcangelo, io vedo le foto all'interno del tuo libro, il cimitero Crespi d'Adda, dominato la tomba di famiglia Crespi, c'è una sorta di piramide azteca al centro di un giardino. era qualcosa di molto di più che una semplice fabbrica. No, assolutamente, infatti è una cosa che mi ha colpito moltissimo la tomba del cimitero di Crespidad, perché poi andando poi a ricercare nella storia viene fuori veramente il carattere colonialista della famiglia Crespi, che si differenziava moltissimo dall'esperienza olivettiana, a cui poi probabilmente arriveremo. E tant'è vero che il cimitero fu costruito anche perché chi abitava nel villaggio non scioperava tanto per questioni legate al lavoro, ma minacciava di non andare a lavorare perché non c'era un posto nelle vicinanze dei paesi, delle persone che lavoravano poi ai cotonifici e che non avevano avuto posto nella fabbrica a Crespidad, perché non c'erano i posti dove essere seppelliti. E quindi anche sulla spinta di questo fu costruito il cimitero, che però naturalmente poi diventò una sorta di veramente di monumento al despota, di monumento al colonizzatore, al grande re. Tant'è vero che poi un'altra cosa meravigliosa architettonicamente del villaggio di Crespidad è il castello. Io ho immaginato Crespidad come una Camelot quando sono arrivato lì. Sì, perché, quello somiglia. Perché è veramente quello, sembra veramente una città medievale, e io sono rimasto così affascinato che l'ho raccontato esattamente come una città medievale. Era già un parco a tema, per questo nel tuo libro finisci con il Luna Park dell'Eur, perché alla fine sono dei grandi parco a tema. Esatto. La scelta poi di finire con l'Uneur mi dava anche la possibilità di speculare un po' e raccontare il passaggio dalla società industriale alla società dello spettacolo. Era un esempio veramente forte e perfetto, e quindi anche perché lì avevo moltissimi ricordi legati alla mia infanzia. Io sono nato negli anni, a fine anni 70, quindi ho vissuto veramente sulla mia pelle questa trasformazione tra la fine della fase industriale reale e poi il passaggio in Italia alla fase come direbbe Baudrillard, di un mondo virtuale, insomma. La società dello spettacolo, esatto, ma lì esatto. Lo spettacolo costruivano all'interno della città dove si lavorava e poi ci si edificava o ci passava il tempo. Sì, lo ha detto il signore Olivetti, facevano dei turni lavoro estivi per permettere alla gente di andare al mare. Stefano Moriggi. Sì, è indubbio questo, ma i due aspetti del vivere bene e dell'eccellenza di queste realtà industriali non credo vadano letti come separati. Voglio dire, Olivetti, di cui si parlava, e ho sentito la testimonianza dell'ascoltatore, nel 1954 vola negli Stati Uniti e va a recuperare il più grande esperto ricercatore italo-cinese di calcolatori elettronici. Si chiamava Mario Chu, un grandissimo scienziato pressoché dimenticato, che insieme a Olivetti ha, diciamo, fondato l'informatica in Italia, quando ancora non esisteva il nome, la parola informatica, visto che è stata coniata da un fisico francese nel 1962. Nel 57 Mario Chu convince Olivetti a investire su una tecnologia nuovissima, era un azzardo, i transistor, e nel 1959 Mario Chu col suo gruppo, tutto di giovani, sottolineo, di giovani ricercatori, presenta al mondo Elea 9003, il primo calcolatore della storia funzionante esclusivamente a transistor e concepito per la produzione in serie. L'Italia era sul tetto del mondo, peccato che la politica di allora non se ne è accorta, e le parti dell'Olivetti, centri di ricerca e produzione che riguardavano questi aspetti così innovatori, sono passati negli anni alla General Electric americana. Questa quindi è la storia. Noi abbiamo anticipato Bill Gates, ma di tantissime lunghezze, soprattutto di decenni. Assolutamente sì, ed era un'occasione quindi in cui la ricerca non solo era fine a se stessa, ma stava cambiando la società, il modo di vivere, il modo di relazionarsi. Sappiamo quanto queste tecnologie ci hanno cambiato la vita. Ricordarsi in questa archeologia degli spazi e dei saperi, che il libro di cui stiamo parlando così bene racconta, è un dovere civico per pensare cos'è stata in Italia la cultura d'impresa, cos'è stata in Italia la ricerca e cosa oggi, ahimè, non sono. Melog, la realtà condivisa. 14 tettoie lunghe fino a 200 metri, botti su tre file, le une sulle altre, botti di 7000 litri ancora attive e funzionanti. C'è un altro angolo di terra in Sicilia capace di sviluppare profitto e ricchezza per i Florio e di ricevere in cambio lavoro e stabilità. Marsala. Già il nonno di Ignazio aveva profuso denaro e risorse per la costruzione di uno stabilimento, il cosiddetto Baglio, proprio accanto agli inglesi. Florio era l'avanguardia di Marsala. all'avanguardia di Marsala, perché a Marsala, se ricordo male, c'erano meno 15, 20, 30 industrie di vinicole, ma la Florio era numero uno. 80024, 0024, stiamo parlando di alcune tappe del libro di Giancarlo Liviano d'Arcangelo, Invisibile è la tua vera patria, che è un reportage dai luoghi dell'industria italiana scomparsa, che non c'è più, di cui ci sono soltanto vestigia illustrate in delle bellissime immagini all'interno di questo libro. Allora Giancarlo, stiamo parlando della tappa Floro, sennò sembra che tutto era tutto collocato al nord, quello di cui stiamo parlando. Non è così in realtà. No, assolutamente no. Infatti, attraverso l'esperienza palermitana e poi scendendo giù verso Marsala, verso le ex cantine Florio, che naturalmente di cui ancora esistono le etichette, esiste una grande produzione di vini, io ho potuto vedere come in realtà la Sicilia all'inizio degli anni del Novecento, fine Ottocento, era una terra invece dove si investiva, dove c'era una vita economica veramente molto florida. La cosa che mi ha colpito veramente moltissimo è vedere come poi tutta la parabola della famiglia Florio è assolutamente assimilabile, così come moltissime parabole delle grandi famiglie industriali italiane, a quella di Buddenbrock raccontati da Thomas Mann, no? Una saga da farci un telefilm, esatto, veramente straordinario, dove c'è veramente di tutto, c'è veramente una creazione di una fortuna immensa, enorme, veramente fatta con le proprie mani, non come magari avviene oggi, dove molti industriali poi hanno grosse facilitazioni statali. Insomma, lì era veramente una cosa fatta con le proprie mani. Cos'era la Tonnara Bordonaro invece? La Tonnara Bordonaro è una delle tante tonnare che ci sono nella zona di Palermo e che i Florio pian pianino acquisirono, perché naturalmente si occuparono inizialmente di spezie e poi successivamente anche della produzione del tonno in scatola. I Florio furono gli inventori del tonno in scatola, quindi insomma anche qui un'enorme capacità imprenditoriale di sguardo verso il futuro. Poi però anche lì naturalmente, quando poi i Florio hanno voluto diventare forse ancora più grandi rispetto a quello che erano riusciti a fare, cioè a trasformare la loro ricchezza, che era tenuta sotto controllo, era sotto le loro mani, trasformandola poi in qualcosa di diverso, in qualcosa di legato più alla finanza, legato più alla corporation, alle prime corporation, al principio di globalizzazione che già all'inizio del Novecento era in corso, le cose sono sfuggite di mano e la famiglia Florio è scomparsa, e così la sua fortuna. Quindi anche questa è una storia, una parabola veramente molto interessante e paradigmatica, insomma. Senti, mi dici esattamente come hai collocato poi il Luna Park dell'Euro in questa catena, perché è la cosa che più mi affascina del tuo libro, che alla fine dà il rango di grandi luoghi di ricreazione, quasi luoghi dove la gente poi si spezzava, moriva pure, hai visto, ci ha detto il reduce della ex Falk, dice sì, ma non è che c'era tanta attenzione, si andava un po' come si andava al fronte, non si andava all'alto forno, gli operai presi dall'euforia folle dell'acciaio toglievano guanti, protezione, andavano lì, prendevano le barre al volo e qualcuno ci lasciava qualche pezzo. No, assolutamente, questo è un altro aspetto che secondo me è molto bello sottolineare, vale a dire cioè, vedendo dall'interno poi le cose, anche la vita di lavoro, si capisce come ed è per questo che ho tentato di eliminare qualsiasi giudizio poi all'interno del libro, si capisce come davvero le persone che poi dedicavano la loro vita alla vita di fabbrica, alla vita industriale, la vivevano veramente come anche come una sorta di sfida, come una sorta di capacità di superare se stessi. Per questo poi ci si toglieva i caschi, si lavorava a petto nudo, si lavorava superando se stessi anche nell'orario di lavoro, e lo si faceva in qualche modo capendo che quella era la propria vita e lì bisognava dare tutto. Cosa rimane dell'ex Luna Park dell'Euro? Per i romani era la ruota panoramica che si vedeva, ora non c'è più, l'hanno smontata. Il Luna Euro è un posto che mi ha affascinato tantissimo quando ci sono stato, perché era il simbolo degli anni 60, diciamo. Esatto, sì, del periodo degli anni 60-70, e adesso in dismissione, tra poco ci costruiranno un parco per bambini della prima infanzia, 0 a 6 anni, quindi assumerà i canoni di un vero e proprio centro commerciale, un vero e proprio centro commerciale. Quindi secondo me la parte interessante nel raccontare il Luna Euro era questo passaggio anche qui storico, poi da una fase della nostra vita in cui la realtà era concentrata veramente nelle vite di tutti e quindi si portava il proprio immaginario nel parco e lì il parco prendeva vita, a una fase di milioni e milioni di bambini consumatori che vanno. È una grande nostalgia, non so se mai più ci salirò, del calcio in culo, che era una vera scuola di vita. Sì, sì. Perché era la sintesi di una persona forte e una persona leggera. Io ero sempre quello che venivo lanciato a prendere la coda di cavallo per vincere il pallone o il giro in più. Stefano Morigi, vediamo in conclusione questo giro. Vedo che ha suscitato grandi emozioni nel nostro pubblico. Improvvisamente sembrava che una fetta d'Italia dimenticata è riemersa nell'analisi delle vestigia. Ancora una volta i monumenti e le tombe ci fanno pensare sulle glorie del passato. Penso che il naturale, diciamo così, proseguimento di questo bel libro sarebbe portare alla visibilità una sorta di archeologia del presente, perché l'Italia è comunque piena di imprenditori che continuano a sostenerla nell'invisibilità. Forse non hanno più le dimensioni di un tempo, forse non hanno più la vanagloria, l'autocelebrazione che contraddistingueva quelli di fine Ottocento, ma la piccola media impresa di cui tanto si parla, ma di cui poco ci si occupa, forse sarebbe il naturale proseguimento di quel libro in cui ritrovare il connubio tra ricerca, innovazione e forse anche benessere. Grazie Stefano Morigi, grazie Giancarlo Viviano d'Arcangelo, a Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti. Ci sentiamo domani.